9 in punto, la versione di Oscar. Of everything that stands the end, no safety or surprise the end. Buongiorno cari ascoltatori, buongiorno, buon mercoledì 30 maggio, oggi è San Giovanna d'Arco ed è un po' quello lo spirito a cui bisogna fare riferimento, lo spirito di chi si rimette in piedi e combatte in un giorno come questo, un giorno di dolore dopo le nuove scosse che hanno rimesso a terra con ancora maggior violenza quell'area dell'Emilia che già il 20 maggio, 10 giorni prima, aveva subito il sisma e questa volta è cresciuto il numero delle vittime e come vedremo c'è qualche polemica che inizia anche a infervorare. Ma prima di questo, lasciate che io vi dica e vi ripeta nel corso della trasmissione l'appello alla solidarietà che come gruppo Sole 24 Ore, Radio 24, noi tutti di Radio 24, tutti i colleghi del Sole 24 Ore vi chiedono di ascoltare, perché il gruppo Sole 24 Ore ha reso attivo il numero solidale di telefono per chi volesse contribuire. Il numero di telefono è 45500, ripeto 45500, 45500 per la raccolta delle donazioni. Il ricavato è versato direttamente sul fondo della protezione civile per la ricostruzione e il lavoro, quindi abbiamo deciso di non alimentare canali paralleli che magari avrebbero anche dato più orgoglio, visibilità al nostro gruppo, ma di confluire direttamente la ricerca da parte vostra, di mettere una mano al portafoglio e confluendo tutti sull'unico fondo della protezione civile. Ripeto ancora una volta, il numero di telefono è 45500 e vi ricordo che il valore della donazione è di 2 euro per ogni sms che invierete dai vostri cellulari, vale per tutti gli operatori, sia che sia Team, Vodafone, Wind, Tre, Postemobile, Coop Voce, Tiscali, Noverca, e sempre in caso di messaggio di 2 euro il contributo per le chiamate da rete fissa. Anche qui valgono sia per operatori che vi gestiscono il servizio di rete fissa Telecom Italia, Infostrada, Fastweb, Teletu e Tiscali, e vi chiediamo davvero di farlo. Il numero di telefono è 45500 e invece per chi è direttamente in Emilia Romagna vi ricordo l'accordo che ieri stessa insieme ai sindacati CGIL, CISL e UIL, le associazioni del lavoro, Confindustria, hanno sottoscritto per dare un indirizzo comune, per così dire, agli interventi di sostegno da parte delle imprese e dei lavoratori dell'Emilia Romagna a favore di chi è stato così direttamente colpito. I contributi che si raccolgono direttamente sui posti di lavoro vengono versati sul conto corrente bancario che è stato attivato appositamente. Vi do gli estremi di questo conto corrente bancario perché si può anche qui direttamente contribuire. È il conto corrente bancario numero 12900, ripeto 12900, presso la Carisbo, sede di Bologna, del gruppo Intesa San Paolo. L'IBAN, tento di leggervelo lentamente, di questo conto corrente bancario numero 12900 del conto Carisbo sede di Bologna, l'IBAN è IT 11 N 06 38 50 24 01 1 poi 60 00 00 00, poi 12900. Lo rilego ancora una volta velocemente, sapete che l'IBAN è sempre complicato. IT 11 N 06 38 50 24 011, poi 6 volte 0 12900, ed è intestato a Confindustria, CGIL, CISL e UIL, il fondo di interventi a favore delle popolazioni, dei lavoratori, dei sistemi produttivi della regione Emilia Romagna e della provincia di Mantova. Mi sembra giusto ed elementare cominciare dall'appello alla solidarietà operante nei confronti di chi è stato colpito dal sisma, nei confronti delle cose. Ma dicevo le polemiche, perché È pressoché inevitabile, ma è comunque quello che è avvenuto. Oggi diversi quotidiani, diversi organi di informazione aprono con titoli tipo, per esempio, La Stampa, terremoto, l'apertura della Stampa è strage di operai. Sul Corriere della Sera trovate il titolo centrale: quei capannoni accartocciati, Fornero, altrove non succede. E c'è un commento di Dario Di Vico, il dilemma delle imprese, dove il testo iniziale è chiaro qual è il tema che indica. Scrive Dario Di Vico: riaprire le aziende e ripartire va bene, perché fermi non si può proprio stare, ma se la volontà è forte, oggi la natura è stata soverchiante. E parte una riflessione sui capannoni finiti sotto accusa per le vittime che sono avvenute nel modenese. Io ricordo che i danni sono gravissimi, perché a Mirandola è il distretto biomedicale che è raso al suolo, a Finale Emilia la ceramica che è durissimamente colpita, a Medolla l'alimentare, a Cavezzo la meccanica. Ma la polemica è in particolare sulle vittime che nei luoghi di lavoro sono capitate ieri, perché la polemica è: da una parte troppo presto si ritornava al lavoro, dall'altra c'è uno scandalo evidente dei capannoni che vengono giù come se fossero friabili. E quindi ecco la polemica che nasce. Naturalmente ci sono giornali che ci vanno giù con una durezza maggiore, per esempio il Fatto Quotidiano, che titola la sua apertura di oggi: schiacciati dalle fabbriche. E i commenti sono, ve ne leggo i titoli: risparmiavano sulla sicurezza. E sull'Unità Susanna Camusso, con la sua intervista, attacca dicendo chiaramente: qui c'è un problema di sicurezza del lavoro e delle imprese, degli imprenditori che non hanno fatto la loro parte. Allora, tentiamo di distinguere oggi i nostri compiti prioritari, e quello di ripetervi ogni tanto questo numero di telefono della solidarietà che vi ho già detto e che torno a ripetervi. Il numero di telefono è 45500 per la raccolta delle donazioni, poi darvi un quadro di come stanno le cose con voci dirette e testimonianze, e poi infine occuparci anche delle polemiche, cioè di questo orrore più o meno annunciato dei capannoni troppo friabili, dall'altra parte del fatto che fosse una colpa. Quella che a me sembra invece ancora una volta la testimonianza straordinaria del cuore delle imprese italiane, cioè la voglia di tirarsi su immediatamente le maniche e di dire: non ci piega niente, non ci piega la natura, non ci piega neanche lo Stato. Se voi ci vedete dietro una specie di espressione arcaica del padrone raffigurato come il padrone del signore delle ferriere di Cronin della prima rivoluzione industriale britannica senza diritti, a me sembra che si prendano cantonate. Si confonde l'operosità, la voglia di fare, di non piegarsi, di gente che sa bene che con le condizioni attuali del mercato, di cui parliamo da settimane e da mesi, purtroppo la concorrenza non fa sconti. Cioè, se tu stai fermo con un'impresa per cui hai buttato il sangue insieme ai tuoi dipendenti, ai tuoi collaboratori, e stai fermo per settimane, poi non riparti perché gli ordini se ne sono andati, questa è la drammatica evidenza di fronte alla quale dare una risposta, la drammatica evidenza che spero animerà anche la risposta dello Stato nel Consiglio dei Ministri di oggi, visto che in passato abbiamo avuto innumerevoli volte la misura di come lo Stato non sia stato all'altezza. Vi leggerò poi una lettera che ci arriva da un imprenditore di Genova, che ieri dopo il sisma ci ha mandato, ci ha scritto e ci ha fatto riflettere su cosa è avvenuto dopo l'ultima alluvione lì, e di come lo Stato non sia poi capace davvero di dare quella mano essenziale. Nessuno gli chiede di coprire di soldi a getto tutti quanti, ma almeno le cose essenziali per consentire poi una riapertura e una ripresa immediata. Allora, vediamo un secondo intanto chi è con noi per farci capire meglio com'è la situazione. E abbiamo qui con noi Stefano Rimoldi, lo abbiamo sentito, lo ricordate, poche settimane fa per tutto il biomedicale, quando parlammo dei decreti che il governo avviava ad approvare per avviare a pagamento in qualche modo il suo debito commerciale e per consentirne la certificazione bancaria e la compensazione fiscale. Ma in realtà lo sentiamo oggi perché è amministratore delegato della Belco, che è un'azienda biomedicale di Mirandola, ed è con noi appunto Stefano Rimoldi. Io lo ringrazio. Buongiorno Rimoldi. Buongiorno. Senta, il quadro della condizione del tessuto un po' di imprese, io ho ricordato i diversi distretti che sono colpiti, ma Mirandola è soprattutto il biomedicale. Stamattina come stanno le cose? Beh, questa mattina rientriamo in azienda, tanto per non farci mancare nulla come dirigente, però abbiamo deciso come dirigente di ritrovarci in azienda, casomai in plein air, per stabilire un nuovo piano di recupero delle attività, perché quello che avevamo fatto è che era avviato e ci dava la prospettiva di veramente di una ripartenza in tempi brevi, è stato un po' messo in discussione, praticamente distrutto dall'evento di ieri mattina, quindi dobbiamo di nuovo ricominciare. Il nostro capannone, fortunatamente, pur essendo strutture anni 70 e 80, ha avuto danni strutturali che non lo rendono agibile, ma non è collassato, non è crollato, non abbiamo avuto nessun ferito. Le parti di ampliamento che abbiamo fatto post 2003, quindi post entrata in vigore della normativa antisismica, non hanno avuto neanche un graffio. Non dimentichiamoci che questa da sempre è stata considerata una delle, se non l'unica zona italiana a inesistente rischio sismico. Nel 2003 appunto è stata fatta una rivalutazione di basso rischio sismico, questo ha implicato una nuova normativa, credo che tutti ci siano adeguati, e ripeto, quello che è stato fatto perlomeno da noi e quello che è stato fatto dopo non ha avuto un graffio. Le altre strutture hanno avuto lesioni, non crolli, nessun ferito, ma certamente inagibilità, e questo ci crea problemi pesanti. Allora, io ricordo che proprio al settore biomedicale appartiene l'Aries, un'azienda il cui titolare Mauro Mantovani ieri è stato l'ultimo a uscire mentre arrivava la terribile scossa ed è morto, quindi c'è anche una vittima, un imprenditore proprio a Mirandola e proprio nel settore a cui appartiene l'azienda, di cui Stefano Rimondi, che con noi è qui amministratore delegato. Ricordo a tutti che a Mirandola ci sono più o meno le diverse aziende del compressore, sono 15.000 persone, ma di queste 15.000 più di 4.000 sono nel solo biomedicale, che sono 100 imprese. Sono oltre 5.000 su circa 100 aziende, tra aziende che vanno direttamente sul mercato e conto terzista. Posso chiederle due cose? Sì. Perché la polemica sui capannoni tende, per così dire, a dimenticare questa cosa che lei ha già direttamente accennato, cioè che nel 2003 è cambiata la mappa del rischio locale, perché prima appunto era considerata zona totalmente fuori, praticamente priva di rischi sismici rilevanti. Le chiedo, prima questione, dal 2003 in avanti chi oggi attacca e polemizza dicendo le imprese se ne sono fregate comunque della mutazione del coefficiente di rischio e i capannoni sono rimasti non a norma, ecco, questa polemica ha un fondamento o meno? E poi seconda cosa, chi di fronte alle vittime, ai lavoratori di ieri, dice le imprese hanno richiamato al lavoro troppo presto, secondo lei prende una cantonata oppure c'è del fondamento? Guardi, per quello distinguiamo le due cose. Per quello che riguarda i capannoni, io credo che fare su centinaia di capannoni una generalizzazione, come quasi tutte le generalizzazioni, sia un errore. Ognuno deve, a casa propria, fare le valutazioni su quelle che erano le aree di rischio, sulle responsabilità che sono prese, e generalizzare veramente non serve a nulla. Ripeto, io parlo per la mia azienda, le ho detto le condizioni in quando state costruite, le conseguenze che ci sono state, conseguenze molto modeste dal punto di vista del rischio delle persone, quindi ripeto, ognuno deve fare una valutazione con la propria situazione specifica. Per quello che riguarda il rientro, io credo che sottrarsi alle critiche sia impossibile, perché è vero, noi abbiamo completato dopo il primo forte terremoto, quello della domenica scorsa, noi martedì sera, dopo due giorni di riunione continua, avevamo messo a punto tutto il piano d'azione per una ripresa di attività che ci portava praticamente a non interrompere il rapporto col mercato e, se tutto si inanellava bene, a superare tutta la crisi e ritornare in piena operatività nel giro di due mesi. Chiaro che questo significava coinvolgere tutte le maestranze in un lavoro di ripristino, affidandosi a ditte specializzate che fanno questo di mestiere per la messa in sicurezza delle attività. Se avessimo aspettato gli aiuti dello Stato per braccia incrociate eccetera, avremmo avuto una critica diversa, e cioè quella di mancanza di imprenditorialità, di non pensare ai lavoratori che rimangono in cassa integrazione e così via. Noi ci siamo presi personalmente, perché dentro c'eravamo prima di tutto noi dirigenti, nei primi giorni la fabbrica chiusa e i dirigenti dentro, ci siamo presi noi un rischio personale anche a favore, diciamo, di una ripresa il più possibile possibile rapida delle attività a beneficio di tutte le maestranze, non soltanto della profittabilità aziendale. Col senno di poi lo rifarei, francamente lo rifarei, chiaro, tenendo conto di quelle che sono le situazioni di rischio che si vedono. Oggi come oggi il rischio è aumentato a causa della scossa di ieri, che è stata molto più forte, e quindi le precauzioni che dovremo prendere sono di gran lunga superiori, e quindi faremo pragmaticamente, stabiliremo un nuovo piano d'azione dipendente dalla nuova situazione che si è venuta a creare. Però ripeto, trovo che siano polemiche abbastanza fuori luogo, perché il buon senso e la sensibilità di ogni imprenditore, di ogni dirigente, va correlata alle situazioni di rischio che vengono riscontrate, affidandosi anche alla valutazione di persone esperte che sappiano dare delle valutazioni realistiche e professionalmente corrette. Io mi limito ad aggiungere a quello che ha detto che la riprova del fatto che ci fosse una coralità convergente nel chiedere di tornare il più presto possibile alla ricognizione dei danni e a lavorare per non perdere i contatti col mercato è rappresentata dal fatto che abbiamo visto dopo il 20 ripetersi, per esempio ho in mente delle cose al TG3 in cui imprese, sindacati, sindaci chiedevano la stessa cosa, e poi se ieri è dolorosamente scomparso, oltre ad operai e a lavoratori, anche proprio Mauro Mantovani, il titolare di un'impresa ultimo a uscire, vuol dire che appunto non esiste questa cosa per cui ci sono gli imprenditori che hanno mandato avanti gli operai per farli morire, come purtroppo secondo me è per me incomprensibile vivere in un paese in cui questa è la prima reazione che scatta. E vi dirò la verità, lo dico questa volta usando un tono basso, perché è chiaro che stiamo parlando comunque di un dramma immane che colpisce per miliardi di euro di valore i patrimoni delle famiglie e delle imprese, e quindi bisogna stare anche attenti a misurare il tono. Però ieri io non ho potuto che riflettere profondamente sul fatto che il commento della ministra Fornero era del tutto in linea non solo con quello della Camusso, va bene, ma con quello di Beppe Grillo, che ha detto che i Capannoni sono venuti giù tutti come castelli di carte. Allora, io non credo che sia vero. Non credo che sia vero, nel senso che non c'è una questione che sono venuti giù solo i Capannoni e tutto il resto no. E lì è venuto giù un po' tutto, questo è il problema. Ma se si coglie l'aspetto dei Capannoni, vuol dire che parte il solito riflesso condizionato anti-impresa e anti-industria, e che il ministro in questo sia del tutto allineato con Beppe Grillo, per carità, è legittimo, ma spiega quanto forte continua a essere questo riflesso condizionato nel nostro paese. Ripeto, qui non si tratta di fare una difesa unilaterale dell'editore, non me ne importa niente, cioè non è questo il punto. Il punto è che se muoiono insieme l'imprenditore e gli operai, vorrà dire che c'era la voglia di lavorare. Poi se viene il sisma e viene ancora più violento, e l'Istituto di Geofisica e Vulcanologia ci spiega che è una rottura di faglia nuova, per cui questo in qualche misura dovrebbe rassicurare il fatto che era considerata un'area di sismicità meno allarmante di molte altre, purtroppo della parte predominante del paese, ecco, che in tutto questo immediatamente si dica indagini, inchieste, procuratore, arrestateli. Ecco, questa secondo me è un po' il riflesso condizionato di un paese profondamente malato nelle sue fibre di fondo. Cerchiamo di concentrarci invece nel dare una mano, e non dimentichiamo che lo Stato in questo ha un'esperienza lunga su cui farci riflettere. Ci ha scritto ieri un imprenditore di Genova, Giancarlo Morgavi, e ci scrive così: il 4 novembre 2011 la mia attività è stata distrutta dall'alluvione a Genova, e io comincio la storia infinita che ha diversità del famoso film, oggi non ha ancora avuto un esito infelice, la storia infinita. Non avrei mai pensato nella mia vita di piccolo imprenditore di cadere nei miami della burocrazia, che state certi fa più danni dell'alluvione, dovrei dire oramai. Torniamo ai fatti, la mia attività viene distrutta con molte migliaia di euro di danni ai macchinari e alla merce distrutta. Io produco abbigliamento, ricami e stampa, il mio marchio a Genova è anche abbastanza conosciuto, si chiama Zena. Dal giorno dopo dell'alluvione inizio a girare uffici per capire come poter usufruire di qualche aiuto. Non ho voglia di essere annoverato tra i disoccupati, ho 48 anni, ho ancora molto da fare al mondo del lavoro, inizio a trovare muri di gomma ovunque che rimbalzano tutte le mie domande. Premetto che la Regione Liguria ha emesso un bando per poter esercitare le attività alluvionate, 40% a fondo perduto dal danno avuto, sono stati stanziati 30 milioni di euro. Il bando è pieno di assurdità, dalla richiesta di effettuare prima l'investimento e poi ricevere il contributo, alla richiesta di una fideiussione per garantire lo stesso, fino a scoprire oggi che se non sei in regola con i contributi, ma come fai ad esserlo, visto che la crisi e l'alluvione non ti hanno permesso di pagare, ti hanno interrotto con la continuità, se non sei in regola con i contributi, ripeto, non ti danno i contributi. Ma stranamente sul bando dimenticano di inserire questa informazione. Allora, è vero che chi non conosce tutte le 150.000 leggi italiane non può vivere in questo paese, ma la cosa più ridicola è non dare le informazioni agli imprenditori travolti dagli effetti di un evento naturale, non mettergliele tutte per iscritto pensando che la loro attività a quel punto debba essere informarsi di tutte le altre norme, oltre a quelle non esplicitamente richieste nel bando. Non ho molto i dati, ma voglio farvi capire di che cosa parlo come bacino di imprese investito dai danni dell'alluvione del novembre 2011. 500 aziende colpite travolte, 300 milioni di euro i danni stimati alle aziende, 30 i milioni invece stanziati dalla Regione Liguria per le aziende con danni sopra i 30.000 euro, solo 66 le domande pervenute alla Camera di Commercio di Genova, 5 milioni le richieste di risarcimento pervenute alla Camera di Commercio dalle 66 aziende sopradetto, 60 sole le domande trasferite per la valutazione finale, delle quali solo 3 hanno richiesto un'erogazione di contributo. Allora, 0 sono gli euro erogati ad oggi, ed è questa la sintesi del bilancio del sostegno pubblico alle imprese colpite dall'alluvione di Genova del novembre 2011. 0 euro. Allora, c'è da riflettere, ministro Fornero, vogliamo riflettere su questo? Oppure ha più senso che lei ci faccia le polemiche sulle imprese che costruiscono col pan di zucchero i loro capannoni perché disprezzano gli operai e vogliono che muoiano? Io credo che al pubblico deve rispondere di 0 euro di Genova e che tutti quanti incalziamo il pubblico per impedire che anche sotto il governo dei professori avvenga la vergogna che più volte il pubblico ci ha riservato. Le polemiche su chi ha la responsabilità tecnica su eventuali impianti non in sicurezza sono naturalmente libere e aperte per tutti, ma che la prima reazione del ministro sia l'attacco all'impresa io lo considero una vergogna. Eccoci qui tornati in studio, sono travolto da una serie di reazioni, più delle quali sono negative, di ascoltatori che dicono che ho totalmente torto, che oggi li sto deludendo perché questa difesa dell'impresa, gli imprenditori risparmiano sulla sicurezza. Allora, guardate, e per quello che vedo io evidente che non tutti i capannoni sono caduti, che non tutte le costruzioni sono cadute, eccetera, eccetera. Quando ho detto viene giù tutto, ho detto è difficile immaginare, il sottinteso era questo, lo spiego meglio, è difficile immaginare che ci sia la turpe volontà del famigerato imprenditore che risparmia sulla sicurezza all'origine di questa roba qua. È chiaro che non tutti i capannoni sono scesi, chi sì e chi no, ci sono quelli che sono fatti a capriata con pilastri, senza pilastri antisismici, eccetera eccetera, però è vero o non è vero che la zonizzazione antisismica lì era carente? È vero o non è vero che il criterio fino al 2003 era un altro? Ora, benissimo, se volete pensare che la cosa fondamentale all'indomani di eventi di questo genere siano le polemiche, le procure, le manette, fate, cioè io no, non è che posso oppormi a un riflesso condizionato prevalente oramai di ogni aspetto della vita italiana. Benissimo, immaginate che Mauro Mantovani che è morto e gli operai che sono morti sono figli di una congenita disposizione delle imprese a essere disumanizzanti, perché tanto questo è il riflesso condizionato che scatta in voi. Cosa diversa è che in un paese che ha tanta parte esposta al rischio sismico, anche quelle che tradizionalmente erano considerate meno esposte debbano poi predisporre tutto il necessario e giusto, ma senza per favore pensare che le vittime siano figlie della disumanizzazione insita e congenita nell'imprenditore. Questo era il mio tentativo di dire al pubblico che ci risparmi questo tipo di polemica, almeno i ministri, visto che come avete letto il bilancio poi degli aiuti quando ci sono imprese colpite e travolte dagli eventi è zero, come nel caso di Genova. Conterà forse un pochino anche quello, oppure dobbiamo pensare che le imprese se lo meritano perché sono loro che disumanizzano il lavoro e se ne fottono della sicurezza. Ecco, allora, siccome in questo caso stiamo parlando di aree in cui il giro d'affari del solo biomedicale a Mirandola sono oltre 4 miliardi di euro, quello dell'alimentare a Medolla sono oltre 6 miliardi di euro, la ceramica Finale Emilia sono altre 4 miliardi di euro, l'intero distretto della meccanica nella parte del modenese colpita sono altri 12 miliardi di euro, cioè stiamo parlando di un'area di intensissima vocazione di impresa. Bisognerà pur stare attenti adesso a evitare i danni di prima, e parliamo dei danni che sono prevedibili, cioè quelli fatti dallo Stato, non quelli che ci dobbiamo mettere a ragliare tutti quanti come asini dicendo che è colpa prevalente dell'impresa. Comunque questa è la mia opinione. Tra gli altri settori pesantemente colpiti c'è ovviamente quella di una delle aree a più alta intensità di specializzazione e di prodotti straordinariamente importanti per l'agroalimentare, e quindi è con noi ospite Eugenia Bergamaschi, che è presidente di Confagricoltura Modena. Io la ringrazio e le chiedo una prima stima dei danni aggiuntivi dopo i sismi di ieri e dei problemi maggiori da cui il settore può legittimamente oggi chiedere che tipo di provvedimenti dal pubblico. Grazie e buongiorno innanzitutto. Buongiorno a lei, grazie. Dunque a 24 ore dalla scossa di ieri mattina alle ore 9 non siamo ancora in grado e non vogliamo ancora dare dei dati stimati per i danni, perché è decisamente impossibile. Impossibile perché è stata ieri una giornata difficilissima, presi soprattutto dal panico, dalla paura, perché le scosse di ieri veramente a noi sono sembrate decisamente molto più forti di quella del 20 di maggio. Ci stavamo riprendendo, come ha detto giustamente lei, ancora dai danni morali, fisici, della paura e anche della distruzione dei sisma del 20 e di tutte le scosse che sono, non dimentichiamo, tutta la settimana noi abbiamo avuto scosse di varia natura, quindi stavamo a fatica riprendendoci, e ieri è stata la catastrofe, per cui ieri la priorità di questo territorio è stata quella di portare soccorso alle persone. Non dimentichiamo che c'erano 7.000 sfollati, al quale oggi se ne sono aggiunti altri 8.000, quindi si parla di 14-15.000 sfollati in questi comuni. È un tessuto industriale molto importante, un tessuto produttivo molto importante e molto importante anche per l'agricoltura. Io mi sento di dire che la provincia di Modena ha il più alto numero di prodotti DOP e IGP in agricoltura. Io ho aziende agricole in ginocchio, non solo per la distruzione dei ricoveri delle attrezzature agricole, non solo per la distruzione delle abitazioni, ma anche perché non si sa che cosa fare, perché devo ringraziare gli aiuti, i soccorsi, la protezione civile, i vigili del fuoco. Tutti ci hanno aiutato, i soccorsi sono stati tempestivi e anche efficienti, però adesso noi abbiamo bisogno dello Stato, abbiamo bisogno dello Stato, abbiamo bisogno che lo Stato ci venga incontro, e quando dico che abbiamo bisogno dello Stato, e non parlo solo per l'agricoltura, parlo per tutti i settori produttivi, mi sento di dire che abbiamo bisogno non di polemiche, basta polemiche, è ora di fare dei fatti, è ora di passare all'azione. Abbiamo bisogno che lo Stato ci dia delle leggi per poter riprendere, perché qui la gente non piange, qui la gente, avete visto ieri, le persone che sono morte dentro i capannoni, compreso il titolare dell'azienda del biomedicale, stavano cercando di rimettere in piedi quello che era stato distrutto una settimana fa. Quindi noi siamo la gente del fare, non vogliamo polemiche, non vogliamo neanche marciarci sopra su questa cosa, però abbiamo bisogno che lo Stato ci sia vicino, che una volta per tutte, visto che è anni che ripetiamo che tutte le imprese vengono soffocate, massacrate dalla burocrazia, e questo è il momento, se lo Stato ci vuole bene, se questo governo ci vuole bene, se la politica ci vuole bene, che mettano mano alla burocrazia, perché non se ne può più. Io la settimana scorsa perché io non ho mai vissuto un terremoto così di grande intensità, mi sono trovata a far compilare alle mie aziende agricole migliaia di fogli che non servono a niente, perché poi non so che cosa serviranno. Quando mi chiedono perché li devo compilare, non so che risposta dargli, perché contributi non so se ne arriveranno mai, visto quello che è successo anche a Genova. Quindi io chiedo veramente col cuore in mano che diamo un taglio alle polemiche, aiutiamo le imprese di questo territorio, gli imprenditori di questo territorio non sono degli assassini, perché se sono morti di fianco agli operai, questo da dovrebbe dire lunga. Noi siamo già con le maniche, la manica del camice tirate su per iniziare a lavorare di nuovo, però abbiamo bisogno veramente che lo Stato ci stia vicino con delle leggi per far riprendere l'economia e aiuti se vengono anche economici, ma soprattutto anche una semplificazione burocratica. Grazie infinite a Eugenia Bergamaschi. Io ricordo a tutti che il numero solidale a cui effettuare le donazioni, si tratta di 2 euro per ogni sms che inviate dai cellulari o 2 euro per le chiamate che fate da rete fissa. Il numero è 45500, 45500. Il numero di conto corrente bancario invece presso la Carisbo sede di Bologna è 12900 e Libane IT 11N06 38 50 24 0 1 1, 6 volte 0, poi 12900, ed è cointestato a Confindustria e ai sindacati e il fondo di intervento a favore della popolazione, dei lavoratori, dei sistemi produttivi della regione Emilia Romagna e della provincia di Mantova. Mentre non ripartono i dorsi, alcuni ascoltatori dell'area ci dicono: ma 5.8 di magnitudo, ma com'è che tutti quanti noi abbiamo avuto l'impressione di un sisma enormemente più grave e violento di quello di 10 giorni prima? Poi ci manda un sms un ex assessore del comune di Cavezzo, che è uno di quelli che stanno proprio nel cuore dell'epicentro del sisma. Dice: ex assessore del comune di Cavezzo 2004-2009, e ricordo bene quando a seguito della mutazione delle norme, cioè di essere entrati ufficialmente in zona sismica nel 2003, ci furono proteste di cittadini e di imprese, perché è ovvio che a seguito della riclassificazione sismica aumentavano i costi per tutti a seguito del nuovo quadro di norme. Firma Flavio Lodi, un ex assessore, lo ringrazio del contributo, che fa capire meglio quale fosse anche il quadro della resistenza, perché naturalmente ci sono obblighi nuovi e di fronte ai quali non tutti hanno le stesse disponibilità di immediatamente mettere mano. Allora, vedrete che questa è una delle polemiche che continuerà. Io più che ripetere che per il momento la solidarietà deve essere la prima urgenza per tutti, e noi come gruppo vi chiediamo di mandare messaggi al 45500, poi che lo Stato eviti di dar lezioni se fa cose come quella di Genova, che abbiamo documentato attraverso la voce di un imprenditore. Ma siccome la nostra amica di Confagricoltura Eugenia Bergamaschi ci diceva lo Stato faccia il favore di fare semplificazione burocratica, a questo proposito sono un po' di giorni che volevamo farvi sentire la testimonianza di un sindaco di un comune in provincia di Treviso, Silea, e questo sindaco ha mandato una lettera aperta ai giornali proprio a proposito del fatto che, a prescindere dall'indirizzo politico di cui è espressione, però di fronte a ciò che lo Stato chiede ai suoi cittadini nel comune, lui non se la sente più di stare dalla parte di chi chiede solo adempimenti, appesantimenti, aggravi di imposta, eccetera eccetera. Ed è con noi e Silvano Piazza, è una specie di testimonianza dal basso di quello che tante volte vi diciamo: dal basso si può cambiare e si può dire allo Stato: guarda, ti devi fermare, perché altrimenti o ti fermi o io sto con i vessati più che coi cittadini, i vessati delle vessazioni dello Stato. Sindaco, buongiorno. Silvano Piazza, allora, da cosa nasce questa sua specie di ammonimento allo Stato: sto coi cittadini e non sto con te? Beh, innanzitutto, se sto coi cittadini sto in realtà con lo Stato, no? Perché poi c'è questa antitesi tra Stato e cittadini: in realtà lo Stato sono i cittadini. La questione è molto semplice: con la tassazione dell'IMU il comune Silea ha scoperto che non avrà alcun trasferimento di soldi da Roma al comune. Lei fa solo l'esattore per conto dello Stato. Esatto, cioè ha scoperto che il comune di Silea, primo in Italia nel 2010 per la propensione agli investimenti, su dati proprio sulle 24 ore, dà 40 milioni di euro a Roma e riceve zero. Allora lei mi deve chiedere, cioè qualcuno mi deve dare una mano per capire che cosa devo fare. Cioè io sono stato eletto 2 settimane fa con i 2/3 del voto e devo dire ai miei cittadini: signori, niente contributi alle scuole, niente contributi agli asili, niente contributo agli anziani, a quegli ammortizzatori sociali che in qualche modo era anche in comune, niente alla scuola di musica, allo sport, niente di niente, perché tanto le vostre tasse sono al 100% a Roma. Poi Roma che cosa fa? Fa 2 operazioni, dice: con l'IMU mi invento il fondo sperimentale di equilibrio, che in realtà è, come si potrebbe dire, una bugia, perché con quella scusa là ti dice: Silea, io presumo che prendi troppi soldi per cui non te ne do più. Prima bugia. La seconda: vuoi mantenere alti i servizi che davi finora? aumenta le tasse, quindi le percentuali sull'IMU. Allora lei mi deve dire perché dovrei aumentare già le tasse che sono già alte. Ma io dico, ma vai tu, prefetto, dalle imprese a dire no, vi aumentiamo le aliquote perché tanto nessun soldo delle tasse che pagate rimane nel territorio. Vai tu a rispondere alle signore che vengono lì, che magari sono in difficoltà a fine mese, perché tanto tu sei a reddito fisso. Caro Stato, inizia a tagliare, no? Che non è possibile a un certo punto aumentare la tassazione, sbaglio? No, guardi, io la penso come lei, non le voglio neanche chiedere, cioè, anzi no, dobbiamo dirlo, perché di quale parte politica è espressione la lista con la cui è stato eletto sindaco? È una lista civica, però io sono espressione del PD. Del PD, ecco, è questo. Quindi sono anche paradossalmente una terra leghista, ma la questione non è esatto, ma io per questo glielo ho chiesto, sono completamente d'accordo con Silvano Piazza, che i cittadini siano uguali è un principio sacrosanto della Costituzione, sono no? Cioè, completamente non... d'accordo con lei, ed è proprio per questo, e a maggior ragione che, se me lo consente, abbiamo apprezzato tutti leggendo sui giornali la sua semplice appello al governo dicendo guarda, questa roba non è giusta, non sta in piedi, perché non sta davvero in piedi, ma come fa un sindaco a spiegare ai suoi cittadini, guarda qua, paghiamo tutti per robe di cui non vedremo nulla. Ecco, esatto. Questa elementare voglia di affermare un principio che deve essere alla base di un rapporto di trasparenza e di efficienza, ma di trasparenza e di efficienza di un banale meccanismo democratico come sono le tasse, e ciò in cambio delle tasse lo Stato ti deve dare, per me è la riaffermazione elementare del buon senso su cui ricostruire le istituzioni. Questo sindaco è del PD, questo sindaco potrebbe essere di qualunque altra parte, io dico viva tutti quelli che vogliono rifondare l'ordinamento italiano su questa base trasparente. Ecco, e per quello, per me, più sindaci seguono l'esempio di Silvano Piazza, sindaco di Silvia, meglio è per il paese. Un altro esempio, Nello Coppetto, in questo caso è il presidente della CNA, quindi gli artigiani di Udine, che dicono alle banche, cari signori, non ce n'è per noi, vi ridiamo le chiavi delle nostre imprese, perché noi così non andiamo avanti. Naturalmente le diranno, Coppetto, che le sta esagerando, che questa è demagogia. E invece? E invece, buongiorno a voi, e invece noi cercheremo di andare avanti su questa linea che la CNA provinciale di Udine ha messo in piedi, perché credo che veramente gli artigiani sono stanchi e sono stufi di soffrire e di non riuscire a proseguire con i loro progetti, con le loro attività. Ogni giorno noi, i nostri sportelli continuano a sentire il mondo artigiano, i proprietari appunto con questa grande difficoltà nel credito, le banche non concedono più nulla e quindi si trovano in tantissima di difficoltà, ma non per andare a pagare i propri debiti, ma soprattutto per cercare di innovare, per cercare di smuovere un attimino ancora di più la loro azienda, cercare nuovi investimenti, di creare nuova produzione, nuova produttività. Quindi io credo che veramente noi siamo pronti e spero che anche le altre associazioni di categoria vengano dalla nostra parte, perché tutti quanti assieme potremmo veramente fare qualcosa di più, ma chiederemo sempre di più ai nostri artigiani di chiudere i conti nelle banche dove appunto... Ecco, questa cosa espressa con questa chiarezza e durezza, chiudere i conti nelle banche è un'altra dei gradini che bisogna compiere. L'associazionismo d'impresa, ragione Nello Coppetto, deve trovare più unità, più forza, più determinazione, più incisività nel dare corpo alla protesta di questa piccola impresa che viene travolta e oppure offesa nel nostro paese. Chiudere i conti con le banche, se le banche non... Ecco, io penso che questo sia un buon esempio, ci abbiamo la chiusura. A me tocca dirvi che il numero di telefono per la solidarietà per le imprese, i lavoratori e le famiglie colpite in Emilia è 45500. Fatelo dal fisso, fatelo dal mobile, tutti quanti noi che lavoriamo qui lo stiamo facendo, e vi chiediamo di fare la stessa cosa. Diamo l'esempio prima noi privati di ciò che lo Stato inevitabilmente domani ci deluderà. Speriamo di no, ma io ne sono abbastanza sicuro. A domani.